Arlecchino e Colombina. Colombina piangeva e scongiurava, ma Pantalone era deciso a darle in sposa al Capitan Spaventa. Ma padre, non l'ho neppure mai visto. Come faccio ad amare un marito che non ho mai visto? Arlecchino dice che Spaventa fa mulinare la spada per strada e maltratta la gente in continuazione. Ed è così vecchio, padre. È quasi vecchio come voi. Il vecchio Pantalone batté il piede e fece una sfuriata. Non voglio sentire nemmeno un'altra parola. Sposerai Spaventa. Lo sposerai la settimana prossima. E ora vai subito in camera tua. Colombina corse in camera singhiozzando e si gettò sul letto. I suoi pianti giungevano fino alla cucina, dove Arlecchino stava preparando il pranzo. Era così infelice per la sua amata Colombina che le sue lacrime caddero nella minestra rendendola salata. Quella sera, a notte inoltrata, sgattaiolò su per le scale e sussurrò a Colombina attraverso il buco della serratura. «Ti prego, non piangere più, Colombina. Ho riflettuto a lungo. Il Capitan Spaventa non ti ha mai visto, vero?» «No, mai», mormorò Colombina aprendo uno spiraglio nella porta. «Mi vuole sposare solo perché ha sentito dire che mio padre è ricco». Allora Arlecchino scoppiò in una risata. Colombina gemette. «Ma come puoi ridere così di me, Arlecchino, quando il mio cuore è a pezzi? Ti odio, vai via!» Ma Arlecchino stava scendendo le scale a salti. Aveva un piano. Il capitano beveva come al solito nella sua osteria preferita, quella vicino al canale. «Offro a tutti, e quando avrò sposato Colombina potrete venire tutti a bere il vino di Pantalone», gridava a squarciagola. L'oste tossì nervosamente. «Pagherete il vostro conto, non è vero, signore? Quando sarete sposato mi dovete un sacco di denaro, sapete?» Spaventa fece mulinare minacciosamente la spada. «Tutto a suo tempo! Ma chi è quel babbeo del vestito multicolore? E chi gli ha dato il permesso di attraccare qui la sua gondola?» Arlecchino fece segno con il dito a Capitan Spaventa. «Potrei dirvi due parole in privato, mio signore?» «Tu? Osi parlare con me? Ho una mezza idea di gettarti nel canale!» Arlecchino, con un agile balzo, si mise fuori dalla sua portata. «La mia padrona Colombina mi ha dato un messaggio per voi!» «Bene, bene, perché non l'hai detto subito? Sputa fuori, moccioso!» E Spaventa fece un ghigno mostrando i denti neri e rotti. Arlecchino si alzò in punta di piedi e gli sussurrò in un orecchio. «Lei ha sentito parlare del vostro affascinante aspetto, signore, e vi chiede di andare a visitarla». Spaventa disse: «Dunque non vede l'ora di conoscermi, eh? Beh, non mi stupisce, vengo subito. Sono proprio curioso di vedere questa famosa bellezza». «No», disse Arlecchino, «non stasera. Venite domani a mezzogiorno, quando Pantaloni è fuori. Buonanotte, capitano». La mattina dopo Arlecchino fu occupato a far commissioni, ma nell'istante in cui Pantalone si allontanò da casa, corse su da Colombina. «Fammi entrare, il tuo fidanzato sarà qui da un momento all'altro e abbiamo un sacco di cose da fare». Colombina aprì la porta, il suo volto era pallidissimo. «Cosa vuoi dire da un momento all'altro?» «L'ho invitato io, ora togliti il vestito e dammi la tua scatola del trucco». Colombina, troppo sorpresa per discutere, scivolò fuori dalla sua gonna di seta e Arlecchino la indossò al posto suo. Si mise un cuscino sul petto per sembrare più grasso, tirò su le maniche in modo da mostrare le sue braccia muscolose, ficcò un gomitolo di lana in uno dei cappelli di Colombina e se lo calcò in testa, facendo in modo che la lana gli scendesse lungo le orecchie. «Ora dipingimi la faccia, Colombina. Mi devi rendere proprio brutto. Faremo prendere il Capitan Spaventa il più grosso spavento della sua vita». Colombina batté le mani con delizia e cominciò a imbrattare il viso di Arlecchino con ciprie e rossetto. Era ancora tutta indaffarata quando si udirono dei passi per le scale. «Eccolo! Dove posso nascondermi?» Tentò di rannicchiarsi sotto il letto, ma era troppo basso. Cercò di nascondersi nell'armadio, ma era troppo pieno di abiti. «Oh, Arlecchino, mi vedrà!» Arlecchino si alzò le gonne. «Nasconditi sotto il mio vestito», disse. «Colombina! Colombina! Sono venuta a trovarti, piccioncino! Il tuo valoroso capitano è venuto per vederti!» Arlecchino spalancò la porta mandandola a sbattere contro il muro. Afferrò Capitan Spaventa e gli stampò un bacio in fronte. «Oh, sei davvero attraente come ti hanno descritto!» Capitan Spaventa era senza parole. «Ecco, io di solito porto gli occhiali, ma oggi volevo avere il mio aspetto migliore». «Questo è il vostro aspetto migliore?» balbettò Capitan Spaventa. «Sì, sì, ma io non posso promettere di essere sempre così carina come oggi». «Carina?» gemette il Capitan Spaventa. «Vedo che ammiri i miei capelli», disse Arlecchino toccando i fili di lana. «A dire il vero sono posticci perché io sono un po' calva». «Calva?» Da sotto la sottana di Arlecchino, Colombina cercava in tutti i modi di non scoppiare a ridere finché non cadde per terra. «Cos'è stato?» disse Capitan Spaventa. «Oh, non è niente, solo la mia gamba di legno che a volte si stacca», fece con punto Arlecchino. Colombina scoppiò in un gorgoglio di risate. «È la mia digestione», spiegò Arlecchino. «Sono una martire della digestione». «Ma come, te ne vai? Volevo parlare con te delle nostre nozze. Capitano! Capitano!» Spaventa non si fermò per aprire la porta. Si gettò direttamente fuori dalla finestra gridando: «No, no, piuttosto rimango scapolo fino alla morte! Non voglio, non voglio!» Colombina rotolò fuori da sotto la sottana. Le faceva male lo stomaco dal tanto ridere. Saltò in piedi e abbracciò stretto Arlecchino. «Oh, grazie, grazie, Arlecchino. Sei stato meraviglioso e così coraggioso. Ma perché hai rischiato tanto per me?» «Perché ti amo, Colombina, e non potevo permettere al Capitan Spaventa di sposarti, perché io ti sposerò». «Oh no, che non la sposerai!» La porta della camera si spalancò e Pantalone apparve sulla soglia. Aveva gli abiti impolverati e il cappello di sghimbescio. «Prima Spaventa salta dalla finestra proprio su di me e mi schiaccia come una cimice. Poi trovo mia figlia in biancheria intima che abbraccia il mio servitore. Prendi questo, mascalzone, è questo!» Pantalone inseguì Arlecchino per tutta la casa attraverso la piazza e dritto dritto nel canale. «E non tornare!» gridò. «Mi troverò un altro servitore e farò sposare Colombina dal primo che la voglia». Quella notte Arlecchino tornò in punta di piedi alla casa e cantò tristi canzoni d'amore sotto il balcone di Colombina. Ma le persiane e le finestre erano sbarrate e tutte le luci della casa spente.